ero già raccomandato giorni fa e qualcuno vedo che mi ha ascoltato di comperarsi il messalino quotidiano che costa 3-4 euro a seconda delle edizioni e dura tutto il mese, a differenza del biglietto del tram che tu lo usi e poi lo butti dopo una corsa. Ora, a che cosa serve questo messalino? Serve per esempio a capire bene le letture quando sono proclamate in chiesa, perché se non ci fermiamo su, fuggono via, fuggono via. Servono, se uno ha voglia, la sera prima di venire a messa, leggerle come preghiere della sera, così che il giorno dopo, quando va a messa, gli sembra di trovare delle parole conosciute, un volto noto. Serve anche per chi non viene a messa tutti i giorni. Cioè, devo comprarlo che non vengo sempre. Ti serve per stare in collegamento con il pensiero della Chiesa. Prendiamo questo periodo natalizio che è molto ricco. Ti permette, se tu hai il messalino, di seguirlo bene. Se poi ascoltiamo la lettera ai Colossesi di oggi, primo capitolo, sì, viene letta, ma fugge via. Se tu invece hai il testo, la riprendi e ci stai su, guardate, bastano 5 minuti. E scopri, tenterò io in 2 minuti di dirvelo, scopri la densità. Comincia Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Basterebbe questo, amici. Ambrogio, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Luigina, mamma, avete sentito il discorso meraviglioso del Santo Padre al primo dell'anno? Se non l'avete letto e non l'avete sentito, andate a cercarvelo, dove fa un inno alla donna. Per i romani il primo dell'anno è Maria, Madre di Dio, no? Fa un inno bellissimo, amici, dovete andare a leggervelo, no? E Luigina, Antonietta, mamma, per volontà di Dio, e dunque apostola. Ma abbiamo bisogno di starci su noi, perché se mangiamo solo la pappa preparata dagli altri, dal sacerdote, cosa volete? Ai fratelli e ai santi e credenti fratelli in Cristo. I cristiani all'inizio non erano chiamati cristiani, erano chiamati santi, perché dovevano tendere alla santità come santo è il Signore. E poi continua, va avanti, dice, no? Dice: noi continuamente ringraziamo Dio avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù. Tu, mamma, leggi e dici: oh Signore, io invece continuo a pregarti per la fede dei miei figli che non ce l'hanno. Per me è una cantilena, carissimi. Non sento quasi mamma che mi parla dei figli che non dicono e non credono e non vanno in chiesa e bestemmiano e non hanno battezzato il figlio e sono insieme senza essersi sposati. E voi leggete questo, questi qui ci credono. Noi in casa nostra assistiamo al disgregarci della fede nel nostro Occidente. E allora lo prendi in mano la corona del rosario e prega. Oppure dici: andrò a messa qualche volta in più. Quanta gente c'è che potrebbe andare a messa anche i giorni feriali, magari anche voi. Cioè, adesso perché siamo a casa nelle vacanze, vedete voi, insomma, ma uno potrebbe, se ci tiene a pregare per la fede dei propri cari, piglia anche la macchina e fa 3 chilometri e va nell'altra parrocchia vicina. Siamo circondati da messe. Ma che? Ma che? Si prende la macchina per andare al supermercato, si prende la macchina per portare i figli a scuola, mica si piglia la macchina per andare alla parrocchia vicina quando non c'è la messa nella nostra parrocchia. Amici, non ne prendiamo più, non ne prendiamo più di pesci in questa maniera. Continuamente pregando per voi a motivo della vostra fede in Cristo Gesù. Continuamente preghiamo Cristo a causa della mancanza di fede dei nostri figli.